Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Meglio un giorno da leone, Vincenzo. Meglio 100 giorni da pecora. Meglio un giorno da leone, no? No, madonna, io meglio non so, da pecora e da leone. Fai 50 giorni da stacchiotto. Mi stai in mezzo, non fai la figura in mezzo alla pecora. E nemmeno leone, però, campagnolo. Leone, orsacchiotto, pecora, tre animali che raccontano tre modi diversi di prendere la vita, ma anche gufo, allodola o colibrì. Tre pennuti per raccontare tre diversi ritmi con cui affrontiamo le giornate, intese come alternanza di luce e di buio. In linea con noi oggi il dottor Lino Nobili, che non è un etologo, ma è un medico esperto di medicina del sonno. Aniguarda, buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Dottore, intanto scegliamoci il pennuto. Scegliamo il pennuto? Sì. Beh, dipende dal soggetto a soggetto. Abbiamo i gufi e le allodole, come ha detto lei, e i colibrì. Generalmente, cosa significa questo? Ci sono delle persone che hanno un ritmo di sonno in termini tecnici un pochino più ritardato degli altri, cioè tendono ad avere sonnolenza più tardi alla sera, sono più in forma alla sera rispetto alle ore del mattino. E questi sono i gufi. Le allodole invece sono quelle persone che sono molto in forma al mattino, tendono ad andare a letto prima la sera e iniziano molto presto la loro giornata. I colibrì vengono definite quelle persone che si adattano più facilmente ai vari, sono un po' la media tra un gufo e un'allodola, e sono anche quelli che più facilmente si possono adattare ai vari cambiamenti, ecco. Si cambia anche pennuto nel corso della vita, penso ai bambini, penso agli adolescenti che tendono a diventare gufi, anche i bambini che da piccoli non dormivano ed erano sempre sveglierini, crescendo intorno ai 13-14 anni tendono ad andare a letto la sera tardi e, se li lasciamo, a svegliarsi il mattino verso le 11, mezzogiorno, come se si fossero in qualche modo trasformati. Beh, certo, guardi, noi abbiamo scritto nel nostro patrimonio genetico i nostri ritmi biologici, che possono essere diversi da persona a persona, come hanno detto, gufi o allodole, ma i nostri ritmi biologici si adattano anche alla maturazione del nostro sistema nervoso e, purtroppo, ahimè, anche al decadimento del sistema nervoso. E quindi c'è tutta una variazione di come il nostro ritmo sonnoveglia si sincronizza col ritmo luce buio. Come lei ha detto, i bambini hanno un scarso sviluppo di tutto il sistema visivo che sincronizza il sonno con luce e col buio, per cui dormono sia di giorno che di notte. Man mano che il sistema visivo si sviluppa, i bambini cominciano a dormire più di notte e a star svegli di giorno. E poi c'è una fase, come lei diceva, dell'adolescenza, in cui anche per questioni, direi quasi sociali, comportamentali, si tende a diventare più gufi, andare più tardi alla sera, e spesso fa grande, no? Se vuole, anche c'è anche un aspetto psicologico, certo. Un po' un chino anche di rifiuto di cercare uno spazio per sé alla sera, il che può qualche volta sfociare anche in un disturbo che si chiama poi ritardo di fase, cioè una difficoltà a prendere sonno presto e quindi anche poi a svegliarsi al mattino e andare a scuola. Poi purtroppo i nostri sistemi evolvono, si invecchia, il nostro sistema visivo funziona un po' di meno e nell'età persone più anziane possono avere anche difficoltà invece a sincronizzare i ritmi, e quindi il ritmo tende a diventare più debole. Naturalmente, oltre a sapere quando andate a letto la sera, che ora vi svegliate la mattina, può essere utile anche avere informazioni sulla vostra attività diurna, quali sono i momenti sì e quali momenti no. Dottor Nobili, sono equamente distribuiti i gufi e le allodole? Perché i nostri amici su Facebook ci hanno scritto e, ad esempio, mi sembra che siano ben distribuiti. Katia, decisamente gufo, costretta a fare l'allodola. Anche Marilena, come Beniamina, che dice che il cervello funziona poco al mattino, mentre la sera le vengono delle idee molto interessanti. Silvia e Silvino sono allodole. Silvino mi scrive che va a correre alle 3:40 del mattino, veramente un'allodola molto in gamba, direi, mentre Silvia dice che chi convive con lei tende a detestarla perché appena sveglia è un grillo. E a proposito di animali, Paola ci scrive: ma si può inserire un altro animale? Non c'è ad esempio il ghiro? Dottor Nobili. Ma sì, sicuramente ci sono, bisogna, ognuno, come abbiamo detto, ha i propri ritmi e deve imparare a conoscerli e imparare a rispettarli, proprio perché I ritmi regolano il nostro organizzazione, il nostro sonno nelle 24 ore, ma anche le nostre performance. È chiaro che le persone che sono più dei gufi, più in forma alla sera, sono anche quindi più in grado di svolgere attività cognitive in miglior modo più nelle ore serali, nel tardo pomeriggio, mentre avranno grosse difficoltà e una cosiddetta inerzia del sonno nelle prime ore del mattino, quindi faranno molto più difficoltà a svolgere delle funzioni cognitive di qualsiasi natura, anche fisica. Mentre come si è visto già da quello che ci ha raccontato, una allodola può essere estremamente in forma al mattino e poi però fare estremamente difficoltà a rimanere attenta alla sera dopo cena, e quindi ha bisogno di una fatica. Io sono una allodola pura. Dimmi che pennuto sei e ti svelerò come sfruttare i tuoi momenti sì e sopravvivere, è il caso di dirlo, i tuoi momenti no. Sembra un gioco di parole, ma in realtà è una delle straordinarie opportunità che ci viene offerta da questa scienza medica che si occupa e studia i ritmi del nostro corpo. È la cronobiologia, una branca della medicina che ha prodotto nuove scoperte, soprattutto applicazioni terapeutiche che ci fanno bene, giovano alla nostra salute e al nostro benessere. Dottor Nobile, lei d'altra parte che si occupa di sonno ci insegna che se perdiamo il ritmo i nostri sonni diventano disturbati, gli effetti si fanno sentire anche di giorno. Assolutamente, quindi bisogna assecondare i propri ritmi, e se perdiamo il nostro ritmo, se andiamo a dormire contro i nostri ritmi, il nostro sonno non si svolgerà più allo stesso modo, anche se in termini quantitativi potrebbe essere della stessa durata, qualitativamente non lo sarà. Pensiamo ad esempio a dover dormire nelle ore del mattino dopo una notte di lavoro. In alcune situazioni può essere estremamente difficile, specialmente andando avanti con l'età, riuscire ad avere un sonno prolungato contro i propri ritmi biologici. Faccia conto che quando noi ci svegliamo, il nostro sonno è fatto in modo tale che di notte la temperatura interna scende, i ritmi del cortisolo scendono, e questo favorisce lo sviluppo del sonno. Allo stesso modo c'è un picco di melatonina. Nelle ore del mattino invece aumentano la produzione di cortisolo, aumenta la temperatura interna, e questo ostacola lo sviluppo del sonno, per cui andare contro i nostri ritmi è come trovarsi ogni volta in una situazione di jet lag, e quindi non si può far fatica a prendere sonno o avere una sonnolenza notevole in situazioni invece assolutamente inaspettate. Quindi è assolutamente importante rispettare i propri ritmi, cercare di sincronizzarsi sempre con il ritmo luce buio, conoscendo anche, se vogliamo, se stessi da un punto di vista della cronobiologia. Marino, buongiorno. Gufo, allodola o colibri? Orsetto, leone, ghiro? Assolutamente gufo, assolutamente gufo, dormo 4 ore per notte, però d'inverno al contrario tendo a rimanere chiuso in casa, guardo la televisione e mi sta bene anche la parte invernale, però non c'è paragone con da ora fino a settembre, è fantastico per me. Dormo poco, ma tutte le sere sono pimpantissimo, non vedo l'ora di uscire dal lavoro per andare a feste, eccetera, eccetera. Perché le giornate, è proprio il caso di dirlo, si allungano, ma anche le notti diventano più lunghe. Dottor Nobili. Beh, questo ha detto una cosa, c'è un aspetto fondamentale: la luce è il principale sincronizzatore dei nostri ritmi, e la stimolazione luminosa può ad esempio aumentare la giornata, ritardare anche il momento di addormentamento alla sera, aumentare i livelli di vigilanza nelle ore serali. Questo si esprime particolarmente nelle persone che sono i gufi, che in questa stagione si sentono ancora più in forma nelle ore serali e quindi tendono ulteriormente a ritardare il loro ritmo. Questo purtroppo però può portare anche a una deprivazione di sonno, quindi un conto è essere gufo e andare a letto tardi e svegliarsi tardi, un corso è anche però essere deprivato di sonno. Se uno va a letto tardi e dorme solo 4 ore, può essere un momento in cui questo sembra positivo, insieme all'euforia, ma dopo un po' si paga il prezzo di non dormire 4 ore, quindi bisogna essere gufi, ma rispettare la quantità e la qualità del sonno. Dottor Nobili, ciascuno di noi può chiaramente capire un po' il proprio cronotipo, anche se non sono così precisi. Si può essere un po' un gufo all'odola o un'allodola più gufo, ma insomma come si fa a capire se abbiamo una deprivazione di sonno, oltre naturalmente a capire, a constatare quanto ci alziamo presto al mattino e quanto andiamo a letto tardi la sera? Ma Innanzitutto bisogna capire se una persona che rispetta normalmente i suoi ritmi e dorme le sue ore di sonno, che sono in media quelle che ognuno di noi ha, le sue ore che possono essere tra le 7 e le 8, poi può essere un corto o lungo dormitore, si rende conto che pur non modificando la quantità del proprio sonno, comincia durante il giorno ad avere difficoltà di attenzione, ad avere sonnolenza in certi momenti della giornata, questo può voler dire che la qualità del suo sonno è alterata, per cui, e questa è la cosa fondamentale, una persona può anche dormire una quantità di ore sufficiente ma non avere l'effetto del ristoro del sonno e quindi c'è qualcosa che non va nel suo sonno. Questo qualche volta può essere dato dal fatto che il sonno non è ben sincronizzato con i ritmi biologici, ma può essere anche essere dato dal fatto che all'interno del sonno c'è un problema invece, tra virgolette, più specifico, un disturbo del sonno più intrinseco. Dottor Nobili, noi sappiamo che la vita ci porta a dormire sempre meno, dobbiamo puntare la sveglia, andare a lavorare e molti di noi tendono a recuperare il sonno perduto soprattutto durante il weekend. Si fa bene, si fa male, si paga con un mal di testa, serve? Quello che ha detto è verissimo, che negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni c'è stata una progressiva riduzione del tempo dedicato al sonno, e questo è un male perché il sonno è assolutamente una cosa, una necessità assoluta di ogni organismo. E quello che lei dice è altrettanto vero e lo si vede anche benissimo nei giovani. Recuperare può far bene, è assolutamente necessario, il sonno ha bisogno di essere per forza recuperato, ma c'è anche la controfaccia di questo aspetto. Se una persona recupera durante il weekend può poi avere delle grosse difficoltà a prendere sonno alla sera, quindi se ci sono delle persone che hanno un'estrema elasticità nell'adattare il proprio ritmo sonno-veglia e quindi possono anche non avere interferenze negative da un sonno eccessivo nelle ore del mattino, e altre che invece quando dormono molto nel weekend poi iniziano subito la domenica sera con una notte difficile, con difficoltà a prendere sonno, senza considerare che un'eccessiva quantità di sonno durante il giorno può avere anche il suo effetto paradosso, cioè negativo, c'è un'inerzia del sonno che si protrae, per cui in realtà anche se si dorme molto non si ha la sensazione di essere ben svegli, quindi è importante rispettare i propri ritmi anche per questo. E torniamo ai nostri gufi e alle nostre allodole. Uno dei problemi dei gufi è di andare in debito di sonno, specie se sono costretti a puntare la sveglia alle prime ore del mattino. Che fare? Abbiamo pensato di recuperarlo al weekend, ma durante la settimana si tende a resistere, ad attrezzarsi in qualche modo. Un suggerimento arriva da un libro appena pubblicato che si intitola L'orologio della salute, migliorare sonno e umore per vivere meglio con la cronoterapia, dove ci sono dei consigli dedicati ai gufi. Le allodole le affideremo naturalmente subito dopo al dottor Nobili. Fate una colazione ricca di proteine subito dopo esservi svegliati, anche se non avete fame. Evitate di assumere caffè o altre bevande contenenti caffeina a partire da metà pomeriggio. Anticipate la cena, in modo da avere 3 ore per la digestione prima di andare a dormire, e privilegiate i carboidrati a cena per la loro digeribilità e il loro effetto calmante. Spegnete la suoneria del telefono cellulare e gli allarmi per la posta elettronica e i messaggi almeno un'ora prima di coricarvi. Programmate l'esercizio fisico per mezzogiorno o prima di cena, ma non a tarda sera. Riducete la luminosità dello schermo televisivo alla sera fino a raggiungere un livello confortevole che offra una luminosità appena sufficiente per consentire una buona visione. Dottor Nobili, vuole aggiungere qualcosa per i gufi prima di passare alle allodole? Ma direi che sono tutte assolutamente cose corrette. E si basano fondamentalmente sul momento in cui viene fatta una stimolazione, che sia una stimolazione fisica, cognitiva o luminosa. E lo stesso vale quindi anche per l'allodola, cioè però completamente all'opposto. Un'allodola che è in forma al mattino tende in effetti, come si è sentito anche dai messaggi che le sono arrivati, di fare molte cose al mattino, di correre nelle prime ore del mattino. Questo non fa altro che così avanzare ulteriormente il ritmo sonno-veglia. Se una persona vuole cercare di essere più in forma alle sera e vuole cercare di modificare leggermente il proprio ritmo di allodola, deve avere una stimolazione luminosa intensa nelle ore del tardo pomeriggio, più che può, quindi sfruttare al massimo la stagione che sta arrivando per avere una la stimolazione più verso le ore serali e deve cercare semmai di fare un po' di attività fisica anche nelle ore serali, perché questo fa spostare leggermente il proprio ritmo, fa aumentare ad esempio anche la temperatura nelle ore serali e questo di nuovo ostacola un po' la sonnolenza. Per cui, a differenza del gufo che bisogna che sfrutti la stimolazione luminosa nelle ore del mattino, un'allodola deve cercare di sfruttare al massimo la stimolazione luminosa nelle ore serali. Dottor Nobili, naturalmente approfitteremo della sua presenza per parlare di gufi, allodole e colibri, ma per parlare anche di problemi di sonno, chi riposa male o ha una cattiva qualità del sonno o ha dei sonni troppo brevi, naturalmente al mattino, indipendentemente dal pannuto in cui si riconosce, ha grandi difficoltà a portare avanti gli impegni, il lavoro, ad occuparsi dei figli. Quindi i nostri amici sono invitati a raccontarci se e come il loro sonno è disturbato e come si riflette poi nella loro giornata. Cambiano difficoltà a fare le cose, a ricordare. Mi chiamo Alex Bellini, ho 32 anni, sono nato e cresciuto in montagna, in Valtellina, alla Prica. La mia è una storia di coraggio. Coraggio, che bella parola. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere Alex Bellini. Ciao Alex, esploratore. Buongiorno Nicoletta. Esploratore e navigatore. C'è chi riesce, parlavamo di gufo e allodole, a seconda delle circostanze a cambiare penna. Alex, da gufo trasformarsi in allodole, in colibrì. Tu sei nato montanaro e sei andato ad attraversare a remi gli oceani. Beh sì, nella presentazione si diceva la mia storia è una storia di coraggio, in realtà la mia storia racconta più di paura e quindi quando devo spiegare o devo raccontare perché ho deciso di vivere queste esperienze, queste imprese, mi riferisco sempre alla paura di non riuscire a vivere la mia vita secondo i miei principi, secondo le mie attitudini, quindi talvolta vivere il proprio sogno richiede coraggio, però dall'altra parte c'è una reazione alla paura di non poter vivere la vita secondo i propri schemi e quindi mi riferisco anche spesso, certo, alla paura. Senti Alex, le tue traversate a remi nell'Oceano Atlantico e Pacifico sono le sfide che direi hanno creato più clamore, come d'altra parte la tua corsa da Los Angeles a New York. Ma quando le pensi queste avventure? Esatto, verrebbe da dire che cosa fai di notte anziché dormire. Non volevo allargarmi troppo. Ma in realtà vengo spesso suggestionato dall'ambiente che mi circonda, necessariamente le mie avventure si fondano su qualcosa che mi nasce da dentro, non vengo ispirato da nient'altro se non dalle mie stesse emozioni, quindi l'avventura, che sia attraversare un oceano a remi o che sia sopravvivere su un iceberg fino al suo completo scioglimento, è fondamentalmente cercare di rendere, di contestualizzare una mia necessità, quindi diventa strumento più che finalità, diventa uno strumento per poter vivere sulla mia pelle le sensazioni che voglio poi provare. Quindi il mare era per me quel percorso che dovevo compiere per arrivare a un certo punto e capire più da vicino chi fossi, quindi guardarmi un po' più con gli occhi un po' più da vicino. Era uno strumento, uno strumento che poteva permettermi di guardarmi un po' più con occhi da vicino. Tu hai parlato di coraggio, ci vuole grande preparazione per affrontare queste sfide. E attualmente la tua architettura del sonno è proprio studiata da esperti, perché per affrontare avventure di questo genere tu, a proposito di ritmi, devi essere pronto a cambiare i ritmi sonno e veglia. Esattamente, il dottor Nobili conosce la persona con cui sto collaborando perché è Ugo Faraguna e si conoscono. E, Ugo Faraguna, che è un ricercatore di Pisa, mi sta aiutando proprio in relazione ai miei cicli di sonno, perché un navigatore solitario non sono io l'unico esempio, però insomma un Soldini per esempio ha lo stesso problema, no? Dovendo mantenere in movimento la sua barca per settimane, per dei giorni interi senza poter permettersi un lungo sonno, deve necessariamente trovare una tecnica che gli permette sia di rigenerare il suo corpo e anche le sue energie, al tempo stesso di mantenere la barca in sicurezza. E quindi stiamo studiando, sulla base della mia architettura del sonno, qual è la strategia migliore, e verosimilmente sarà una strategia che adotterà il sonno cosiddetto sonno polifasico, quindi dormire a breve frazioni di 40-50 minuti è ancora da stabilire, per 4-5-6 volte durante l'arco della giornata. Quindi, detta così sembra brutta, ma dei piccoli si fa dei sonnellini, Alex Bellini, per fare le sue avventure. Dottor Nobili. Sì, assolutamente. Alex Bellini ritorna al ritmo che noi abbiamo scritto, anche quello del nostro biologia, cioè il ritmo ultradiano. Quello che hanno i neonati, che non è assolutamente organizzato secondo il ritmo luce buio, ma è quello che organizza l'alternanza tra il sonno non REM e REM, un ritmo che oscilla intorno ai 90-100 minuti. Capiterà a tutti durante la giornata di avere un momento in cui sentiamo un po' di sonnolenza, il colpo di sonno, poi passano 5 minuti e di nuovo ci si ritorna in forma, per poi dopo ritornare alla sonnolenza dopo altri magari 60-70 minuti. Cosa vuol dire? La nostra vigilanza durante il giorno fluttua con un ritmo che è simile a quello che durante la notte alterna il sonno non REM col sonno non REM. In condizioni estreme come quelle che deve affrontare Alex Bellini o altri navigatori in solitari, non è possibile seguire il ritmo luce buio, e quindi si cerca più di ritornare a un vecchio ritmo, qualche volta che viene appunto chiamato ritmo polifasico, e tante volte deve essere ancora più rapido. Ci sono delle situazioni addirittura estreme in cui alcune si arriva a dormire per pochissimi minuti, quindi si entra immediatamente in sonno profondo e poi si rimane svegli per magari un'ora o due ore. In questa fase si va anche incontro certo a una deprivazione di sonno, ma per un breve periodo alcune persone allenate a ritmi del sonno polifasi possono anche riuscire a condurre ad esempio un mezzo come una barca a vela in mezzo a una tempesta, pur in condizioni di estrema sonnolenza o di deprivazione di sonno. Per cui è importante cercare di capire i propri ritmi, perché ognuno ha una propria alternanza non REM-REM, quello che sta facendo immagino il dottor Faraguna con Alex Bellini, di capire qual è il ritmo di Alex Bellini e di proiettarlo poi nelle 24 ore, di capire qual è il momento migliore per prendere sonno e qual è il momento invece per stare sveglio. Alex, ci sentiamo prima dell'iceberg? Sì, certamente, anche perché non è una cosa che comincerà domani, ma comincerà nella primavera del 2015. Abbiamo parecchio tempo davanti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Essere e benessere. Tempo. Ogni cosa ha il suo tempo, il suo momento ideale. Lo cerchiamo oggi insieme al dottor Lino Nobili, e questo è il tempo per conoscere il vostro cronotipo e quindi sapere quali sono le ore del giorno e della notte a voi più congeniali. Se al mattino non riuscite a svegliarvi, se dovete aspettare metà mattina per essere pronti, insomma avete difficoltà a carburare, o se al contrario invece siete subito svegli come un grillo, se dovete partire per un lungo viaggio e la sindrome del jet lag vi preoccupa, se la luce vi tiene su di tono e vorreste mantenere questo stato più a lungo possibile, oppure se il vostro turno di lavoro vi stramazza. Abbiamo molti ascoltatori che si mettono in linea con noi. Luigi, che ci chiama da Bergamo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per l'ospitalità radiofonica. Io non saprei più identificarmi in un cronotipo, perché ho sempre apprezzato molto buio e notte, poi crescendo le cose cambiano un po'. Il mio problema però è di qualità del sonno. Ho una moglie che non è esattamente la mia metà, ma tende più al doppio, quindi ha una russata terrificante e quindi le mie notti sono più da nervoso che non da riposo. Come si può recuperare? Come si può recuperare? Verrebbe da dire coi tappi, ma sicuramente il dottor Nobili ha delle indicazioni più Questa è una cosa molto frequente. Spesso il russamento è causa di insonnia più nel compagno che nella persona affetta dal russamento. La cosa più frequente che si fa è il cambio della stanza, oppure io direi di valutare la moglie per capire se è semplicemente russamento, se si può fare qualcosa, ma mi pare di capire che ci sia un sovrappeso, che è la prima causa di russamento, quindi bisogna cercare di agire su quello. Per un attimo ho pensato che lei, quando ha detto si dovrebbe valutare la moglie, ho detto adesso dice la cambi, ho detto cosa gli è venuto in mente? Si può cambiare la stanza da letto, e questo è molto frequente nei russatori, si sa che le coppie dove c'è un russatore spesso dormono in su letti separati. Certo, e questo anche perché il nostro ascoltatore diceva le mie notti sono più nervoso che di riposo, perché sapere già che si sarà disturbati durante la notte dal russamento del coniuge ti mette già in uno stato d'animo che non è conciliante per il sonno, per cui parti già anche prevenuto. Questo è sicuramente un effetto, e poi comunque il rumore costante del russamento può alterare la qualità del sonno anche quando uno non lo percepisce, quindi ha comunque un sonno che può essere più instabile, più disturbato. Per evitare di russare, dimagrire? In questo caso sicuramente il primo passo è dimagrire e poi cercare di capire se ci sono degli altri fattori anatomici per cui si possono fare delle valutazioni. La prima che direi è si potrebbe fare una valutazione dall'otorino per capire se ci sono delle ostruzioni meccaniche, deviazioni del setto. In questo caso mi sembrava che probabilmente il sovrappeso è la prima causa. Sì, è l'aspetto che il nostro ascoltatore ha sottolineato. Tiziana. Salve Nicoletta. Buongiorno. Grazie. Prima cosa nella vostra trasmissione e buongiorno al dottor Nobili. Io volevo chiedere un consiglio al dottor Nobili perché ho problemi grossi di sonno, nel senso che io lavoro in ospedale e purtroppo sono costretta per lavoro a lavorare due notti alla settimana. Volevo chiedere un consiglio al dottor Nobili perché da un bel po' di tempo devo ricorrere all'utilizzo di psicofarmaci per dormire di giorno, per dormire 5-6 ore la mattina successiva. Un consiglio al dottor Nobili, grazie mille. Grazie a lei Tiziana. Dottor Nobili. Purtroppo questo è un evento molto frequente, i lavoratori a turni dopo molti anni possono avere difficoltà a prendere sonno al mattino durante il giorno perché come abbiamo detto vanno contro i ritmi circadiani. Generalmente si ottiene un sonno perché la deprivazione di sonno durante la notte è sufficiente, qualche volta però il sonno non arriva e può essere utile e necessario prendere dei farmaci, anche se assolutamente non raccomanderei l'uso continuo e cronico di un farmaco per recuperare dal sonno notturno. Quindi bisognerebbe un pochino valutare se ci sono delle fattori che ostacolano, oltre a semplicemente l'alterazione del ritmo, il sonno durante il giorno, capire se dorme in un ambiente chiaramente oscurato nelle ore del mattino. Quindi silenzioso. Il consiglio, quindi questo possiamo prenderla come un consiglio, giù le tapparelle? Bisogna assolutamente dormire ricreando il buio, ricreando il silenzio, evitando di avere assolutamente impegni di qualsiasi altro genere nelle immediate ore dopo la notte, in modo tale che anche da un punto di vista psicologico si affronti quella mattinata come se fosse la propria notte. E poi bisogna capire anche cosa succede durante la notte. Molto spesso può essere anche estremamente raccomandabile, non succede di solito, ma qualche persona durante la notte fa qualche piccolo pisolino, specialmente verso le prime ore del mattino, e questo poi però può ostacolare nettamente il sonno dopo quando si arriva a casa, quindi la deprivazione di sonno notturna deve essere costante se si hanno dei difficoltà a prendere sonno poi al mattino. Quindi si deve proprio vivere, stare svegli di notte e poi scambiare praticamente il giorno con la purtroppo notte. Sì, purtroppo sì, però andando avanti con l'età questo diventa molto più difficile, però non raccomanderei l'uso di farmaci in maniera cronica per risolvere questo aspetto, approfondirei comunque se la cosa si mantiene. Giorgio, buongiorno da Imola, benvenuto. Niente, io non ho nessun problema perché la mia qualità del sonno è ottima, vado a letto circa verso l'una della sera, della notte, mattino 7:30, sono pronto, sveglio e tutto. E invece il pomeriggio, quando arrivano le 2, le 3, se non faccio il pisolino, ma lo faccio, 40-50 minuti, proprio profondo, quasi delle volte sogno, volevo sapere se sono un gufo, un colibrì. Non certo una lodola perché a letto tardi, prima di mezzanotte non riesco ad andare a letto, però la mia qualità del sonno è buona sia di notte. Ho un bradipo pomeridiano magari. Ma guardi, se io non faccio, no, anche alle 6, alle 7 di sera lo devo fare, mi pulsano le gambe, divento irascibile, nel senso proprio la mia attenzione cala e mi cala la palpebra. Mi cala la palpebra, Giorgio, io la capisco. Il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, il pisolo non me lo toglie nessuno. Dottor Nobili, ma direi che anche lei e dei nostri. No, dica non, la verità, no, che si fa anche raramente, ma sono assolutamente favorevole per chi riesce a fare una piccola siesta durante il giorno, se se lo può permettere. In questo caso direi che le signore va a dormire abbastanza tardi, quindi in questo modo è un po' un gufo, però si alza anche presto, quindi è anche un po' deprivato di sonno e quindi lo riesce a recuperare con la tecnica, con la tecnica, quindi è assolutamente fisiologico. Questo però d'altra parte il fatto che ha recuperato durante il giorno farà sì che la notte andrà a dormire comunque sempre un po' più tardi, quindi diventa anche un po' un circolo vizioso questo. Certo. bisogna saperlo, ma si tratta solo di un proprio ritmo di nuovo che, se è adottabile, funziona. Ci ho fatto un bel po' di soldi per anni finché non ho chiuso per scrivere il libro e ora sono molto nervoso per questo, capisci? Mi trovo. Senti, se non... Ah, no, non devi pagare tutto. Oh, da me. No, dico sul serio. Vogliamo andare lungo il fiume? Possiamo... Ma lo sai che ore sono? Ma che vuol dire? Io senza le mie 16 ore di sonno sono un grande invalido, sai. Torniamo a parlare di ritmi. I ritmi biologici fanno parte del pensiero e della pratica della medicina cinese. Ogni organo, lo abbiamo detto più volte, ha per così dire i suoi momenti ideali in cui funziona al meglio, dà il meglio di sé. In linea con noi il dottor Marco Maiola, medico agopuntore, docente di agopuntura alla Scuola Sowen di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a lei e a tutti i vostri radioascoltatori. Dottore, sembra che la cronobiologia metta d'accordo Oriente e Occidente. Tante volte cerchiamo di sottolineare i punti comuni, eccone uno. Assolutamente, già da millenni il sistema della medicina cinese si occupa di inquadrare l'uomo tra cielo e terra. Vuol dire che secondo la tradizione cinese esistono queste energie che provengono dal cielo, le energie della terra, banalmente anche l'alimentazione e la respirazione sono tra queste energie, che fanno sì che all'interno dell'uomo ci sia quella che viene chiamata una grande circolazione energetica, che ha dei suoi massimi e dei suoi minimi all'interno del corpo e quindi, come diceva giustamente lei, anche riguardando gli organi interni. Dottore, la medicina cinese sfrutta proprio la conoscenza di questi ritmi della cronobiologia, possiamo dire, per fare diagnosi. Ad esempio, i risvegli notturni tra l'una e le tre del mattino trovano la loro causa nel fegato, che non è l'organo, come noi lo intendiamo, all'occidentale. Sì, questa in effetti è un aspetto un po' strano, vero. Che noi affrontiamo spesso anche con i colleghi che vengono a studiare presso i nostri centri. In realtà sì, il fegato è anche l'organo così come conosciamo, ma basti pensare che secondo la medicina cinese il fegato, così come tutti gli altri organi, hanno uno psichismo, quindi lo psichismo legato al fegato è quello della tensione nervosa, addirittura della collera. Come psichismo lei che cosa intende? C'è una lettura un po' psico? Tradotto una in lettura modo... un po' psicosomatica, ecco. Mettiamola così, con un linguaggio più... Che più, così più, io capisco soprattutto, attuale, perché sennò si è rovinati. E come diceva giustamente lei, il fegato ha un massimo energetico dall'una alle tre di mattina e per noi quei sintomi, come per esempio un'insonnia che si verifica a cavallo di quelle due ore, può essere in relazione al fegato. È chiaro che non è così banale la... No, ma io, dottor Maiola, venendo da lei, cioè andando da un medico agopuntore che si occupa di medicina cinese, quindi è importante, oltre il sintomo, segnalare anche l'ora di insorgenza, soprattutto se si... Sicuramente un buon medico agopuntore le chiederà la ciclicità della comparsa dei sintomi, che può essere una ciclicità lunga, cioè una ciclicità che va a interessare principalmente mesi o stagionalità, o una ciclicità breve che interessa per esempio le 24 ore. Si tratta sempre di un rapporto tra esterno e interno e quindi questa ciclicità la si può valutare su un ciclo ampio come quello dell'anno o su un ciclo breve come quello della giornata. Dottor Nobili, le piace? Assolutamente, esistono ritmi rapidi come quello luce-buio o ancora più rapidi come quello del non-REM e anche ritmi molto lunghi come quello delle stagioni, e si sa che influenzano anche queste molte variabili biologiche e anche il tono dell'umore e così via. Tonio. Buongiorno. Buongiorno.